Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Non gli fecero festa i suoi colleghi. Da dove sei uscito? Perché hai accettato un centesimo di meno? Gli chiesero. E siccome lui non rispondeva, anche perché aveva il fiato grosso per via del caldo e della fatica, gli si velava lo sguardo. Uno di costoro, un giovane dai grossi baffi e una verruca sulla guancia, che il padrone aveva chiamato Linari, trovò il modo di urtarlo e di farlo cadere lungo disteso. Il padrone gli voltava le spalle, e Metello poté rialzare la cassa e raccogliere i limoni che si erano sparpagliati sul marciapiede. «Ce n'ho di bisogno», borbottò mentre ammucchiava le gabbie poco dopo e costui gli era nuovamente vicino. Un altro, un uomo dai capelli bianchi e il viso pieno di rughe, gli ossi gli bucavano la camiciola, disse: «Se accetti 4 centesimi tu, a me, che secondo loro son per loche e non reggo più di mezzo quintale, cosa dovrebbero dare? Si meriterebbe ma un ceffone», disse Linari passando. Aveva solino e cravatta, portava in spalla una cassa di mezzo quintale come fosse vuota. «Ma lasciatelo campare», intervenne il terzo. Era un uomo di mezza età, con i baffi anche lui, e tutto calvo, col cranio bruciato dal sole e gli occhi che gli ridevano. Sembrava una persona di riguardo, piuttosto che uno scaricatore, malgrado sudasse come gli altri e fosse trasandato. «Non lo vedete com'è giovanino? Per questo deve imparare», disse quello dalla verruca. «Hanno ancora la bocca di latte e ci vengono a togliere il pane!» «Si vede che non gli manca l'appetito», disse il calvo. Metello gli ascoltava, cercando di non guardarli in viso. «Ce n'ho di bisogno», ripeté. «S'è capito», disse il vecchio. «Non lo farai, spero, per una poltrona al pagliano!» Suonò mezzogiorno e gli fecero la paga. La giornata per loro era finita. Metello si trovò in mano 3 soldi, un diecione e metà centesimi. Di fronte al mercato c'era un'osteria la cui presenza, scoperta sin dal suo arrivo, lo aveva aiutato a mantenersi in piedi quelle 5 ore e a sostenere la fatica. Un piatto di pasta dipinto sull'insegna da un lato, in mezzo una scritta e dall'altro lato un fiasco di vino. I suoi compagni di lavoro entrarono che egli mangiava la pasta asciutta aiutandosi col pane. Si sedette al suo tavolo. Chiesero, per prima cosa, il vino. Lo versarono anche a lui, che non l'aveva ordinato. Sembravano meno astiosi, ora. Il giovane dalla verruca gli riempì il bicchiere. «Quanti anni hai?» gli chiese il calvo. Metello stava col viso sul piatto e masticava. «Di la verità, sei proprio di Firenze. Non sappiamo nemmeno come ti chiami». «Avanti», insisté il calvo. «Io mi chiamo Betto». «Ossia il maestro, anzi il troncia», disse Linari. «Per caso stamani non era appena uscito di carbonaia quando sei arrivato?» Metello non conosceva quella parola. Carbonaia, usata, era evidente, per dire tutt'altra cosa. Ne sapeva che dietro il mercato c'era la prigione. Ma capì che se non entrava nelle grazie di costoro, i carabinieri l'avrebbero riportata alla fattoria, e nello stesso tempo fu come se intuisse che solo facendosi amici codesti uomini egli poteva conquistare per sempre la libertà incontro alla quale aveva marciato una notte intera. Lo sguardo era sempre più velato. Via via che mangiava, gli sembrava di perdere le forze invece di riacquistarle. Beve d'un fiato il suo bicchiere di vino e disse, era pur sempre, anche se cascante dal sonno, un ragazzo cresciuto contadino: «Ce n'ho di bisogno, son solo al mondo, mio padre è morto in Arno». «Quando?» gli chiese qualcuno, forse il maestro. Lui nemmeno più li distingueva l'uno dall'altro. «Una 15 anni fa!» Metello annuì e, spostato il piatto, appoggiò la fronte sul braccio. Sentì ancora bestemmiare e vibrare un pugno sul tavolino che tremò. «Ma allora è vero!» il maestro disse. «È il suo ritratto! Il figliolo di Caco! 32 l'orfano, 26 il renaiolo!» Questo era il vecchio che parlava, Pestelli. Metello già dormiva. il sonno greve di un ragazzo di 15 anni che aveva camminato la notte intera, faticato tutta una mattina a digiuno, vinto ora dalla stanchezza, dal cibo rapidamente ingoiato e dall'emozione. Per quanto lo scuotessero, non riuscirono a svegliarlo. Betto dove prenderselo sulle spalle e trasportarlo così, attraverso Santa Croce, Ponte alle Grazie, Giardino Serristori, fino nella sua camera di San Niccolò, sottostante la camera dove Metello era nato. Betto ospitò Metello quella notte e finché poté. Era stato amico di suo padre, viveva solo, e gli piaceva il vino. La sera ciò che gli restava lo beveva. Allora, gli occhi celesti spiritati, usciva in strada e provocava chiunque si prestasse al suo scherno. Sia la ronda che incontrava, lui di già ammonito, le si avventava contro. Sortiva di prigione ogni volta, deciso a ricominciare, ma sul serio, c'è scritto, diceva, in un opuscolo di Cafiero. Sapeva parlare. Aveva studiato. Un suo fratello era funzionario al Genio Civile. Suo padre, avvocato, era stato con Giuseppe Montanelli a Curtatone. «Quello che faccio quando bevo», egli diceva, «è contro tutte le mie idee». Ma non resisteva a lungo. Si ubriacava e usciva a gridare per le strade. «Ladri! Umberto Boia! Metteremo le bombe a Pitti! A San Pietro e al Quirinale! La faremo noi la comune! Viva Cafiero!» Lo raccoglievano, se non incontravi i poliziotti, tra le aiuole di Giardino Serristori, vicino casa, preda delle convulsioni. Sempre lì andava, come una bestia che istintivamente cercasse la tana dove nascondersi e dove riparare. «Non credere che tutti gli anarchici si comportino come mi comporto io», diceva Metello, quando era in sé. «I veri anarchici non sono né come me né come tuo padre, buon uomo, ma che mi assomigliava a queste cose. Non lo imitare. L'anarchia è una grande idea». È la libertà delle libertà, non soltanto la libertà di bere. Non sono gli uomini come me che la possono insudiciare. C'è Cafiero, c'è Kropotkin, c'è stato Bakunin, c'è stato Goodwin, c'è stato Stirner, questi due un po' meno. C'è stato Proudhon. Tieni a mente questi nomi, li devi studiare. C'è stato, qui in San Niccolò, Remigio Benvenuti, facevi il calzolaio e stava accanto alla porta. Io e tuo padre non gli si legava le scarpe. E la mia madre? Chiedeva Metello. «Tua madre», diceva Betto, gli si addolcivano gli occhi un istante. Questa ragazza non sfuggiva. «Se fosse stata una donna di chiesa l'avrebbero messa sull'altare. E invece era atea, le piaceva la libertà, le piaceva la vita, qualunque fosse. Era una bella donna, alta, come stai venendo su te, che per il resto sei il ritratto di tuo padre». E taceva. Una delle prime sere gli aveva detto «Devi sapere che lei era anche la più forte, non tuo padre». Quando tu nascesti e lei morì, io ero in prigione. Ci rimase un anno quella volta. E un altro ne fece a Lipari. Tornai che anche tuo padre non c'era più da un pezzo. Te non sapevo che esistevi. Della famiglia da cui proveniva, dei suoi genitori e di suo fratello ancora vivo, non parlava mai. Si diceva che l'avessero diseredato. E se Metello gli chiedeva, perché lavori in piazza dal momento che hai un'istruzione? Betto rispondeva, lavoro in piazza perché è il più bel lavoro. Scarica giornata quando mi piace, non ho padroni. E anche perché in piazza c'è la sola gente con cui vado d'accordo e con cui merita parlare. Egli fu per Metello il padre che Metello non aveva conosciuto, ma che poteva immaginarsi uguale, certo meno istruito di Betto, non meno generoso, non meno amico. Gli proibì di tornare in mercato e di scaricare. «È il più bel lavoro del mondo, ma non fa per te, devi darti un mestiere!» Andò a Rincine per parlare con quella gente della fattoria, casomai fosse ricorsa ai carabinieri, e per prendergli almeno l'altra camicia e la giacchetta che Mammi Isolina gli aveva lasciato. Tornò e disse: «C'erano già messi l'animo in pace e senza essere stati da carabinieri. La vecchia, la nonna, ti manda a dire Dio t'aiuti. Dice che non avevi altra roba che quella che indossavi quando sei scappato. Ma se non in mercato, lo stesso bisognava lavorare. Scegliti un mestiere», gli disse Betto. «Ma sceglitelo da te, se ce n'è uno che ti piace. Il cappio al collo, mettitelo con le tue mani. Cosa sai fare?» «Niente», egli sapeva fare. «Se non zappare la terra, badare alle pecore e portare dei pesi. Che mestiere ti garberebbe, sentiamo?» Metello lo guardò e gli rispose: «Era soltanto un ricordo della sua fanciullezza contadina che la presenza delle impalancate nel centro della città e sui lungarni gli aveva ravvivato. Il muratore!» Non gli fu difficile occuparsi. Bastava si contentasse della paga più bassa e dimostrasse di reggere alla fatica. Entrò come manovale sotto l'impresa Badolati, che aveva in appalto la costruzione di un'ala dei nuovi portici e dell'arco trionfale in piazza Vittorio. Lavorava 10 ore al giorno e guadagnava 7 centesimi l'ora, più di uno scaricatore. E la fatica non era maggiore, e la sorveglianza del caporale non diversa da quella del guardia. Ma egli era giovane, felice di vivere, ormai e per sempre cittadino. Dall'alto dei ponti, dove saliva con i cofani di calcina sulla spalla, non era più la luna, ma la cupola di Santa Maria del Fiore, che gli sembrava di toccare. A sera si appartava con Betto al tavolo dell'osteria dove avrebbero cenato, o seduti cavalcioni l'uno di fronte all'altro sulla spalletta dell'Arno, su una panchina di giardino Serristori, mai in casa. Sarebbero corsi denari per la candela, e Betto gli insegnava a leggere e a scrivere. Presto Metello seppe fare la sua firma, combinare una lettera da spedire in Belgio e ripetere a memoria lunghi brani del libro di Francesco Pezzi sui fatti del 1878 che gli era servito da sillabario. E a notte, se Betto non era rientrato, quando la chiesa davanti casa batteva le 2, Metello si vestiva, andava al giardino Serristori. Raccoglieva il suo amico folgorato dall'alcol e spesso contuso per via delle convulsioni in cui si era dibattuto. Ora era lui che lo portava in spalla fino a casa. Ma una notte, sul finire del settembre 1890, Metello non lo trovò boccone tra le aiuole del giardino, né altrove. Nemmeno le guardie lo avevano preso, nessuno. Betto scomparve così. E per sempre. troppi anni riciclando al peggio tutte queste bestie. La raschia del fondo. Dall'indomani della scomparsa di Betto, Metello diventò vero italiano e vero uomo. Prima ancora di essere elencato nei registri del comune, si trovò registrato negli elenchi della polizia. Egli era stato contadino, viveva da qualche tempo in città, in un quartiere di operai e di artigiani. Era quindi in grado di capire, e soccorreva la sua giovane età, un'ancestrale esperienza, il pericolo che correva presentandosi sulla porta del commissario a chiedere notizie del suo amico. Ma nessuno si era mosso per aiutare Betto, né al mercato, né tra la gente del quartiere. Dicevano, ubriaco com'era, tutti in cesta, secondo il solito sarà cascato in Arno. E se non è affogato, è alle murate. Non sarebbe la prima volta. Presto o tardi ritorna. In ogni caso, non lascia piangere nessuno. Nemmeno Metello aveva pianto. Mai. Anche se si faceva male, o ne buscava picchiandosi per delle rivalità tra pastori, anche sotto le frustate del guardia, le lacrime non gli uscivano. Sentiva soltanto, sempre, un gran rancore, di cui presto si dimenticava, come qualcosa che gli si fosse conficcato in petto e un respiro dopo l'altro se ne liberasse. Ma ora questo groppo durava. Betto lo aveva ospitato e nutrito, gli aveva insegnato a leggere e scrivere, era suo amico. Metello gli voleva bene, e diversamente da come diceva di voler bene ai tinai, a mamma Isolina e Olindo in specie, nel voler bene ad essi non aveva mai sofferto, nemmeno quando li aveva visti partire. Ora invece, pensando a Betto, pativa. Se si trovava in carcere, gli avrebbe portato da mangiare. Teneva il berretto in mano, aveva le scarpe pulite, la giacca abbottonata e i capelli ravvivati. Quando, non aveva ancora oltrepassato la soglia, gli venne incontro il piantone. «Sono amico del Betto!» «Di chi?» «Del maestro! Vieni, passa!» Lo tennero 2 giorni in carbonaia. Gli usarono il riguardo, siccome era minorenne e incensurato, di non mandarlo alle murate mentre erano in corso gli accertamenti. Ma già durante il primo interrogatorio, dopo avergli fatto ripetere la propria storia e in che rapporti fosse e perché cercasse Betto, il delegato gli disse «Il maestro non è alle murate e non è da nessuna parte. Se è affogato, come dicono, lo ripescheranno, e se non lo ripescano, lo ripeschiamo noi. Tu dimenticatelo, chiaro?» «Perché?» Sembrava che il delegato ne sapesse molto più e non glielo volesse dire. «Piuttosto, parliamo un altro poco di te. Chi era tuo padre, lo sai?» Faceva il renaiolo, e anche lui è affogato, lui davvero. Ecco, disse il delegato, ci siamo capiti. Capiti. Egli aveva detto una verità sotto la quale non c'era nessun sottinteso. Tu sei giovane, e ancora in tempo sei. La strada di tuo padre, del maestro e di gente come loro, sai dove ti porta, oltre che in Arno? Qui? Ti porta? E poi alle murate, e poi a Porto Longone. Alza il viso, gli ordinò. Rendo l'idea? Era un uomo più che bruno, nero. Aveva i capelli divisi a metà, lustri e ondulati. Gli parlava con un tono in apparenza paterno, ma con l'intenzione di mettergli paura. E proprio per questo, siccome si capiva che cercava di impaurirlo, Metello non aveva paura. Non di meno, era meglio se non lo guardava. Gli occhi, che aveva ugualmente neri e sembrava vibrassero mentre lo fissavano, al contrario delle sue parole, lo intimorivano. Sopra la sua testa c'erano 2 ritratti che Metello aveva imparato a conoscere, Re Vittorio, che era morto, e Re Umberto, che non aveva il pizzo, ma aveva i baffi più lunghi, i capelli ritti e, di lui, il San Niccolò si diceva, volta la carta e peggiora. Tra i 2 ritratti, sulla parete tutta scura, con grandi chiazze d'umido, c'era il segno di un crocifisso, come se l'avessero tolto, o come se fosse stato dipinto di giallo, senza il Cristo, sul muro e piano piano si fosse estinto. Il delegato aveva seguito lo sguardo di Metello, puntò l'indice all'indietro e gli chiese «Gli vuoi bene?» Metello annuì. «Saresti disposto al sacrificio della vita per difendere il tuo regno?» Erano le stesse domande che gli rivolgeva il priore di Rincine facendogli baciare i santini. Ripeté di sì. «Proprio?» Poi con Olindo ne ridevano, siccome Babbo Eugenio, appena il prete voltava le spalle, diceva «Quelli si sono messi la sottana e hanno risolto il problema, beati loro!» Ma mamma Isolina voleva si rispondesse «Sia fatta la sua volontà!» Trattenne un sorriso e rispose «Sia fatta la sua volontà!» «Tu a Porto Longone finisci!» disse il delegato. Chiamò il piantone e lo fece condurre in guardina. Era una stanza quadra, alta di soffitto e con l'inferriata che dava su un cortile a un pian terreno. C'era una ragazza che cantava da mattina a sera. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. E non la si poteva mai vedere, siccome la sua finestra era d'angolo e sovrastava la rimessa. Questa, con l'ingresso, era evidente, dall'altra parte dell'isolato, appestava il cortile di sterche e di orina di cavallo. Era autunno e tuttavia in certe ore, per grande che fosse, dentro il camerone non si respirava. Ora Metello sapeva di persona cos'era una carbonaia. Non ancora il carcere, ma di già gli bastava. Gli fecero compagnia durante le 48 ore che vi rimase, dapprima due borseggiatori e un magnaccia che aveva ferito la sua amante e non era valsa a nulla che costei giurasse d'esser caduta. Gli insegnarono a fumare il toscano e come si trattano le donne, e si estrae un orologio dal panciotto. Occorreva andare a scuola. «Quando esci», gli disse il più anziano dei borseggiatori, un bruno sui 30 anni alto e magro che sbagliava l'occhio a momenti, «vai da Ilarione in Malborghetto, digli che t'ho mandato io, digli mi mandi il lunghino, in poche lezioni diventi professore». Gli parlarono dei mille modi di fare l'amore, e due borseggiatori gli dimostrarono come ci si può trastullare a vicenda. Erano arrivati una a distanza di poche ore dall'altro e speravano, dissero, di venire destinati nella stessa cella alle murate. Mentre così si divertivano, il lunghino diceva all'altro, un biondo che sembrava più giovane di età, malgrado i baffi e il riporto sulla fronte, «di la verità, ti sei fatto pigliare perché sapevi che mi avevano pizzicato!» Quello che si vantava di aver ferito la propria donna, disgustato dallo spettacolo, intervenne e si azzuffarono. Entrò il piantone e li trovò che giocavano alla morra. Quando imbrunì, vennero a prenderli per portarli alle murate. Così, per la prima volta nella sua vita, Metello vide più uomini legati a una stessa catena. Sull'alba ebbe due nuovi amici che gli tennero compagnia per tutta la seconda giornata. La ragazza cantava sempre. «È Michela, la conosco», disse uno dei due. «Abita dall'altra parte della strada». Era anche lui un ladruncolo. Colto in flagrante, ammise, sull'omnibus che da Porta alla Croce conduceva a Piazza della Signoria. «Povera figliola! È più in galera di noi. Sta sempre a letto. Non fa che pettinarsi e cantare. È inferma. Non può camminare. Le gambe è come non l'avesse. Cioè, le ha come le aveva 5 o 6 anni. Le tiene dentro delle calze nere di lana, ma se non gliele guardi, il resto è uno splendore. Di giorno non vuole che si salga nemmeno per 100 lire. È tutta bionda, ha 2 occhi e un petto. Comincia a lavorare la sera. C'è sempre la fila». L'altro, Metello, non l'avrebbe più scordato. Si chiamava Sante Chellini ed era nato, fu lui a dirlo, siccome venne il discorso, nemmeno a farla apposta il giorno che cacciarono i Granduca. Faceva il muratore, era un collega, lavorava sui lungarni ed era stato arrestato perché aveva preso a pugni e segnato il caporale. «Me la strappate dalle mani», disse. «Beveva il fiasco dell'acqua e mi volle sentire il fiato. Diceva che avevo nascosto l'altro fiasco del vino e che ero ubriaco sul lavoro. Ce l'aveva con me da un pezzo, non perché non rendo, Lo sa quanto me se rendo e come conosco il mio mestiere, ma perché secondo lui metto sugli altri per via della paga». Ora si pentiva del proprio gesto, pensando a sua madre che restava senza aiuto e alla sua ragazza che faceva la sarta ed era di una famiglia per bene. Già i suoi parenti vedevano di malocchio che si fossero fidanzati. Chiederò scusa in tribunale a quel farabutto, aggiunse. Farò di tutto per uscire prima possibile, ma ormai è andata. Gli ci voleva una lezione. Ma era salito il sangue alla testa, se non me lo levano dalle mani lo disfò. E da lui, per la prima volta, Metello sentì parlare di socialismo, di uguaglianza, di lavoro che andava pagato secondo il sudore, cose che nemmeno Betto gli aveva saputo dire e che gli stavano più a mano. La ragazza sempre cantava, era di nuovo sera, il ladruncolo era andato e tornato dall'interrogatorio. Il Chellini diceva, «Vedi, ora che si è fondato questo nuovo partito, gli resterà sempre più difficile farci del male. Siamo tutti riuniti, e con uomini come Costa e come Turati, ma che in mano vale sei se non li hai mai sentiti nominare, eh? Con loro a capo si sa dove si va, ma ti sembra giusto?» commentò. «Che un filone di pane ci costi 2 ore di lavoro. L'importante è non lasciarsi trascinare alle vie di fatto personali, come è successo a me qualche ora fa. Ma quando te le levano dalle mani...» ripeté. «Perché non ti credere, in certi casi i caporali sono più carogne loro degli impresari, è gente come noi che si è venduta!» Entrò il piantone, che forse stava ad origliare, disse, «Già vi conoscete? Facciamo lo stesso mestiere», Metello disse. «Ma non ci sarà mai visti prima d'ora», aggiunse il Chellini. «Via», disse la guardia, «c'è il cellulare!» Il muratore e il ladruncolo si avviarono. «Ciao, Chellini», disse Metello. «Ciao, figliuolo!» La guardia lo sospinse. Non poterono nemmeno darsi la mano. Metello uscì di guardina la sera stessa, dopo che l'ebbero schedato come figlio di Caco, discepolo del maestro e amico del Chellini muratore. Congedandolo, il delegato gli disse, «Ora, giovanotto, dipende da te. Ricordati che ti teniamo gli occhi addosso!» Egli tornò al lavoro ed aveva preso la sua decisione, togliersi quegli occhi di dosso il più presto possibile. Intanto, ragazzo di 18 anni, soggiacendo ad un pensiero, il più costante tra quelli che l'avevano accompagnato l'intera settimana, il sabato di poi, riscosso il salario, salì le scale della casa di Michela. Le gambe della ragazza non gli fecero impressione, non le guardò o non le vide proprio. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it